Cristallo, anche volte dal centro Trevi, qualche volta dal liceo classico, insomma, quindi questa è una cosa che da una parte ci fa piacere perché ci offre delle occasioni per muoverci nella città e farci conoscere da altre persone, dall'altra però chiaramente non operando con gli strumenti di casa propria diventa un po' più difficile, ecco, quindi noi le nostre cose le sappiamo usare, quelle degli altri insomma diventa un po' più problematico, quindi vi chiedo anche un po' di pazienza se questa sera forse il PowerPoint non andrà in onda, funzionava, eravamo riusciti anche a fare il collegamento, ma a questo punto credo che sia, ecco, il tecnico non c'è, vero? No, comunque direi che possiamo iniziare e mi fa particolarmente piacere essere qui stasera in questa bella sala con Franca Carol, che è una collega, un'amica, e ci conosciamo da tanti anni e questa iniziativa forse è nata così per caso, come tutto è un po' casuale questo incontro anche con la poesia da parte di Franca. Stavamo tornando da Milano, questa primavera e così mi ha raccontato della sua recente esperienza e di quello che stava facendo, per cui non ci siamo lasciati sfuggire questa bella occasione per conoscere anche questo aspetto di Franca, che lavora presso la Biblioteca della Formazione Professionale, la porta avanti da tantissimi anni e soprattutto ha manifestato questo talento artistico e creativo nell'ambito non solo della poesia, di questo linguaggio diverso, ecco, che tocca delle corde molto profonde in chiunque poi si avvicini alla sua poesia, ma anche direi attraverso la fotografia, che è un altro purtroppo aspetto che forse stasera non riusciremo a cogliere appieno, ma che nel libro, e lì ce ne sono poi anche delle copie, si può gustare e godere tutte le forme, ecco, ci sono delle fotografie bellissime che Franca ha abbinato a seconda del tema che viene affrontato da queste poesie. E io ho chiesto così anche di poterci accompagnare da questa presentazione anche del professor Eugenio Lasso e da Patrizio Zindaco, che darà voce alle poesie di Franca. Parlavo prima dell'incontro con Franca sul treno da Milano a Bolzano e di questa sua confessione, diciamo questa confidenza del libro di poesie che aveva ultimato, che stava dando alle stampe. Però sarebbe interessante capire come è arrivata Franca ad abbracciare la poesia e a sperimentare questo nuovo linguaggio. Pronto? No, aspetta. Non facciamo fare la missione lì prima? Tu preferisci? Non lo so, vuole discutere lei prima. Diciamo che lui è il nostro professore. Intanto ci dici com'è nata la poesia, poi magari il professor Grasso ci dice qualcosa sulla poesia. Beh, è nata in un modo piuttosto curioso e bizzarro, perché io tornavo casualmente in montagna una solata giornata d'agosto a prendere il sole e improvvisamente sono fuoriuscite, così ho dovuto scrivere un pezzo di carta alcune poesie, poi lì per lì dico la cosa pensavo finisse lì, invece quindi immaginate lo stupore, uno stupore che però diciamo nella continuità è diventato ancora maggiore, perché appunto da lì ogni giorno poi circa 3-4 pezzi al giorno per 6 mesi, per un complessivo di 200 poesie, appunto in 6 mesi, quelli che trovate nel libro sono solo la metà, un centinaio, quindi c'è stato anche un lavoro di accurata selezione e anche difficile selezione da fare sui testi, e così praticamente è fluita in modo così improvviso questa cosa, come un fumo in piena che ho dato forma in qualche modo a questo questa cosa indistinta che fluiva dentro di me attraverso le parole. Uno strumento che per me la parola è sempre stata in qualche modo anche un problema, cioè il fatto comunicativo non è una mia caratteristica dominante, sono più brava a organizzare eventi, cioè questo è il mio lavoro, oppure stare dietro le quinte su un tavolo di lavoro piuttosto che esprimermi con la parola, sia verbale, parola verbale che scritta. E quindi la meraviglia è stata veramente totale per me. E, che la cosa poi non si è fermata a un certo punto, cioè al punto della pubblicazione, ma è andata avanti e ancora oggi mi ritrovo a scrivere un po' di più, però chiaramente a scrivere. Anche magari con una diversità di espressione di linguaggio, di soggetti rispetto alla prima produzione, insomma. La cosa da dire, da sottolineare, è che mi è arrivato appunto così, molto naturalmente, quindi senza un qualcosa che è passato attraverso il pensiero, niente di voluto, cioè io non ho cercato la poesia, cioè c'è stata una sorta di, cioè è nata l'insegna della serendipità, nel senso che io non ho cercato la poesia che è venuta a me e che a cui ho chiaramente aperto le porte ben volentieri per ospitarla, insomma, nella mia vita, che probabilmente in modo inconsapevole ha sempre abitato in me, ma non in modo esplicito, insomma, sicuramente. E per quanto riguarda appunto il fatto della naturalezza con cui è uscita, mi piace così citare anche altri autori che con i quali mi trovo in sintonia rispetto a questo tipo di approccio e di pensiero sulla poesia. Un paio di mesi fa ero a Milano alla Biblioteca Civica e c'era Adonis, che è il maggiore poeta arabo vivente, e lui diceva: ma semplicemente cos'è la poesia? Gli chiedevano cos'è la poesia, ma cresce come i capelli. È una cosa abbastanza simpatica, poi nella realtà, ecco. Poi anche Keats parla di foglie, crescono come le foglie degli alberi, insomma. E poi vi leggo anche altre due citazioni. Allora, una è di... Ecco, una di Anna Maria Ortese, che mi piace in modo particolare. Allora, la poesia si fa perché le api fanno il miele. Gli uccelli volano, i vulcani tuonano, con gli stessi intenti, cioè con nessun intento, semplicemente perché esiste questa forza, e come tutte le forze, non può non esprimersi. Poi c'è Bukowski, che io non amo particolarmente, anzi però ha scritto una cosa simpatica sul come... percepisce lui la poesia come una sorta di ricettario, lui parla di esplosione o di ruggito. Vi leggo questo pezzo di Bukowski: se non ti esplode dentro, a dispetto di tutto, non farlo, a meno che non ti venga dritto dal cuore, dalla mente, dalla bocca e dalle viscere, non farlo. Poi parla, ci sono altri pezzi, ve li elimino, diventa troppo lungo. Se devi aspettare che ti esca come un ruggito, allora aspetta pazientemente. Se non ti esce mai come un ruggito, fai qualcos'altro. Qui si riferisce ai poeti, insomma. Ecco, questo è un po' un tipo di impostazione che io condivido e mi sento vicina a questi autori che vi ho citato. Ecco, e niente, praticamente è stato più che un incontro, è stato appunto una scoperta, un svelamento di cose che io non conoscevo, cioè come se fosse emersa una città nascosta che io non conoscevo. E mi sono trovata a scoperchiare questo vaso di Pandora. E tutto e di più, insomma. Adesso ci hai incuriosito, proviamo a ascoltare alcune delle tue poesie. Iniziamo con la Rocca. Va bene, sì. La Rocca. Le parole sono superflue, mentre ci si scruta alla ricerca di corrispondenze tra immaginazione, realtà e tracce di antiche sembianze. Poi, tra i ruderi ardenti dal colore rosso cangiante, in una magica notte stellata, un frammento di luce custodirà in eterno queste indelebili emozioni. A bassa voce. In cima a un sogno inaspettato, dolce, scalato con animo puro e festoso, un percorso accidentato, una fitta nebbia che oscura l'alba di un giorno mai nato. Una discesa a picco fino alla fonte sorgiva, dove l'amore, a bassa voce, non c'è nella vita. Disillusione. Con la rabbia nel cuore, con la mente tentata, vuota di pensieri ma gonfia di ideali come una mongolfiera, mi rinchiudo ferita in un muto silenzio. Poi la saliente casualità smuove e dissolve queste contratte emozioni in una vigile leggerezza, incoriandoli in luce. E all'improvviso gli aquiloni rincominciano a volare. Senza ricordi. In un labirinto di rocce ormai erose dal tempo, scrivi il tuo nome a chiare lettere perché rimanga traccia del tuo essere. Imprimi nel cuore di chi ti sta accanto parole indelebili, perché questa tua vita, ormai senza ricordi, intrappolata da un intreccio di fili aggrovigliati, possa comunque chiamarsi vita. Ecco, abbiamo sentito appunto parole, i temi ecco, dominanti, la rocca, bassa voce, disillusione, senza ricordi. Ci dici un po' quali sono stati gli elementi scatenanti ecco, che ti hanno portato a così comporre e a scoprire questa tua vita? Ci sono delle cause a breve termine e a lungo termine. Allora, quelle a breve termine sono, diciamo, degli accadimenti degli ultimi 2-3 anni, cioè praticamente l'incontro con letture significative, con persone significative dal punto di vista intellettuale e spirituale, e queste sono quelle proprio scatenanti, però probabilmente a monte, quindi a lungo termine, sicuramente un substrato che era presente in me, che io non conoscevo, probabilmente ha lavorato nel tempo, perché effettivamente quella del libro sono io, cioè non è una cosa tanto lontana da me, cioè è lo stupore che per me, cioè è questa forma di questa dimensione di estranazione che io ho vissuto in qualche modo, perché mi ha un po' scombussolato, insomma, come una specie di terremoto, un tsunami che arriva e dici, oddio, cos'è? Insomma, c'è un momento in cui non ti riconosci, cioè una, però nel fondo, se si va a scavare bene, in effetti questa cosa è integrata con un contesto di quella che che è stato ed è il mio essere su questa terra. E poi appunto a lungo termine c'è da dire che in qualche modo ci possono essere anche degli agganci con altre forme espressive che nella mia vita ho, diciamo, curato. Da una parte appunto la danza classica, e quindi qui in questo caso la gestualità, poi ultimamente negli ultimi anni concerto professionale, però sicuramente sono degli antecedenti interessanti per far capire che forse questa forma espressiva che è uscita in qualche modo ha delle radici in una creatività che era presente. Non è così improvvisa, la parola sicuramente sì, perché non è mai stata quindi una mia prerogativa, insomma, mentre sugli altri conoscevo le vocazioni e facevano sicuramente parte di me. C'è da dire che c'è appunto in questo, c'è comunque un filo d'Arianna, no? che lega da una parte la gestualità con la ricerca dell'immagine. E poi appunto quando ho pensato di costruire il libro, cioè non è che ho pensato, anche lì mi hanno indotto a farlo, perché non l'avrei mai fatto, anzi una cosa che va detta ovviamente è quando io ho scritto queste poesie che sono contenute nel testo, non c'era un pubblico di riferimento, l'ho scritta perché sono venuta da, ho preso nota, diciamo, e non c'era nessuna intenzione né di pubblicare né di far vedere a nessuno. Poi ho avuto tra cerchi di amici, conoscenti, librai, editori, alla fine mi hanno così portato su questa strada e poi dico, ma perché no, in effetti è stata un po' una sfida verso di me, perché effettivamente mi sono trovata improvvisamente anche lì da passare da un mio personale a un mio pubblico, insomma. E, però sicuramente è una prova che anche questa credo su cui mi devo confrontare, insomma. Certo. E, sì, dicevo appunto che i tre linguaggi, cioè del gesto, dell'immagine, della parola, alla fine sono strettamente connessi, insomma, sono molto vicini. E quando appunto ho pensato di pubblicare, ho pensato anche di dare un'occhiata appunto all'archivio delle mie fotografie e così e costruire poi laddove c'è consonanza e risonanza tra lo scritto e l'immagine, di realizzare questa specularità tra queste due forme espressive, perché mi sembrava una cosa carina e interessante, insomma, per me e per gli altri, insomma. Bene, allora direi che potremo sentire alcune altre poesie. Frontiere. Frontiere indefinite dell'identità e della memoria. Scenari carichi di suggestive immagini. Sguardi che si perdono nell'orizzonte là dove il mare tocca il cielo. Paesaggi ad estensione zero. Tutto questo è la geografia dell'esistenza. Roma antica. Sotto il trasfondo dell'asfalto, il silenzio assordante dell'uomo di ieri. Ruderi, polveri e parole sepolti per sempre, destinati a rivivere solo nell'attimo dell'emozione e della suggestione di chi si sofferma con occhio sapiente a ricercare intime consonanze, a rispolverare vite e bagliori, consegnati altrimenti alle pagine ingiallite del tempo. Risposta silente. Vorrei accarezzarti lungamente, finché dal tuo silenzio escano parole chiare e trovare le giuste parole che arrivino a te. Non temere il mio ostinato cercarti, il vestire di rosso il mio tormento, l'indossare l'abito di uno smarrito sorriso, il cucire vane speranze, perché tu sei altrove, ma pur sempre dentro di me. Parole rotte. Parole rotte, per un sogno decaduto e sbriciolato, per un vulnerabile spaesamento che ha chiuso gli cancelli del mio cuore. Un attimo di respiro per cacciare via i sogni, per avvolgerli in una lacrima, per fare un passo indietro, per restituire questo inestimabile tesoro all'unico legittimo proprietario. Grazie Patrizio. Direi che la poesia di Franca, il linguaggio che usa, è un linguaggio molto profondo. Sono tematiche molto, ecco, diciamo, che fanno riflettere. È un linguaggio, è un monologo dove appunto l'interlocutore sarebbe interessante capire chi è, se ce lo vuoi dire. E soprattutto appunto quando dicevi le avevo create, le avevo concepite per me, ecco, senza avere di fronte un'idea di pubblico, ecco, mi immagino che non sia stato facile poi pensarle e ripensarle appunto per una diffusione, ecco, attraverso un libro, comunque attraverso una presentazione. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, sono espressioni, cioè non è che le ho fatte per me, è che sono uscite, io solo le ho registrate praticamente su un foglio, sono cadute delle parole che si sono collocate in un foglio, in un testo, senza un pensiero, diciamo che sicuramente la matrice è altamente autobiografica, cioè, come credo spesso anche accada nelle in queste situazioni, comunque anche nella narrativa, insomma, alla fine poi si può unirla con la fantasia, però la base è sicuramente molto autobiografica. La partenza è sicuramente il nucleo emozionale che diciamo ho generato all'interno, cioè che viene da me, quindi prodotto di uno stato d'animo, oppure indotto da stimoli esterni, di cose che accadono nella vita o che sono accadute nella storia, insomma. Questi sono i temi, insomma, sicuramente tutto quello che ho registrato, quello che sono anche la quotidianità di quelle che sono il teatro delle vicende umane, cioè dalle riflessioni sulla vita, l'amore, ma anche profili di persone, profili storici, qualche punto sono stati inseriti. E ecco, vabbè, io penso che sicuramente è stato un regalo, credo, che la vita mi ha voluto fare, ecco, in modo compensativo, forse non ho avuto molto della vita per in altri termini, allora forse questa è una. Lo intendo in questo modo. Di navigare per altre dimensioni. Sì, ognuno poi il suo specifico, e questo è stato, cioè, alla mia età, in fondo, tutto sommato, devo dire che un bel regalo di Natale, visto che siamo a Natale. Bisogna sempre cogliere le occasioni, no? Che si presentano bene. Volevo chiedere a Eugen Galasso l'impressione che ha avuto leggendo, visto che è stato uno dei primi che poi ha avuto la possibilità di leggere, di cogliere anche aspetti stilistici, linguistici della poetica di Franca. Ma io direi sì, qualcosa c'è naturalmente nella nota critica, non vorrei iterare, insomma, ripetere per non annoiare troppo. Credo che quanto ha detto la dottoressa Carol esprima già diciamo il nucleo di base, cioè a dire questa naturalità in qualche modo emotiva e poi naturalmente anche cognitiva, razionale, che poi si aggiunge. Per cui però, e questo è il fulcro, diciamo, anche del discorso che ha fatto prima, in qualche modo riassumo, la poesia ci viene a cercare. Questo è poi quanto, diciamo, anche nell'estetica e nella poetica antica si trova, no? Nello ione platonico, comunque ormai attribuito a Platone, diciamo, è Apollo che influenza la musa e la musa che poi cerca il poeta. In termini più moderni, io diciamo una delle riflessioni di un poeta, attenzione, non di un puro teorico della poesia, di un poeta che però, pur avendo scritto molto a livello poetico, poco dal punto di vista della teoria poetica, è sicuramente importantissimo, è René Char. Cosa dice René Char? Lasciamo perdere il surrealismo, eccetera, dove poi naturalmente ci sarebbe da situarlo nella corrente e la cosa non è facile, non è, è molto problematica, ma ci interessa una definizione della poesia. Dice, la poesia è conoscenza produttiva, o produttrice forse meglio tradurre, del reale, della realtà. Lasciamo perdere il concetto di realtà, che è estremamente complesso. Io faccio parte di coloro che credono che non esista una realtà oggettiva fuori di noi se non conosciuta da noi, no? L'inizio è Berkeley, 1700, il cosiddetto sensismo inglese, essere è percipi, no? L'essere è essere percepito. Poi naturalmente tutte le speculazioni successive, ma direi in gran parte confermate dalla scienza. Per fare un esempio, le neuroscienze: non esiste una datità se non conosciuta da noi, conosciuta sensorialmente e poi rielaborata. Ecco. Però ecco, conoscenza produttiva della realtà. E qual è la realtà? Questo mi rifaccio anche a quanto già ha detto la dottoressa Carol. È evidentemente la nostra esperienza, la nostra vita. Se volete, è la soggettività. Non esiste poesia che non sia soggettiva, cioè che non parta dalla nostra esperienza di vita e dalla rielaborazione di questa esperienza. Questo è assolutamente imprescindibile. Poi, giustamente, avete sentito le poesie arrivano alla, diciamo, al recupero appunto di una realtà in qualche modo tra virgolette, tra molte virgolette, oggettiva, come appunto nelle rovine dell'antica Roma e quanto, diciamo, le rovine dell'antica Roma e non solo, diciamo, tutte le rovine, richiamavo Ruskin un po' nella nota, diciamo, quanto ci dicono e ci hanno detto, no? Questo è assolutamente fondamentale, ma il punto di partenza appunto è la nostra esperienza, è il nostro porci, diciamo, in qualche modo nell'esperienza e nel riflettere sull'esperienza che sempre facciamo. Dal punto di vista stilistico, diceva giustamente la dottoressa, ecco, è un verso estremamente libero, è proprio direi la quintessenzialità, se vogliamo, del verso libero. E si ha un'impressione, attenzione, un'impressione di una poesia in qualche modo prosastica. Ma qui cerchiamo di fare attenzione. In un'intervista recentissima, Harold Bloom, che forse è il diciamo lo studioso di letteratura, in particolare però di poesia, più profondo del nostro tempo, Harold Bloom è americano e nordamericano, diciamo statunitense, diceva La prosa, ecco, è una forma, è una modalità, anzi dice, distinta dalla poesia, però afferisce alla poesia, quindi anche tracciare confini troppo diciamo stretti tra poesia e prosa è soprattutto nel nostro tempo è molto pericoloso, è molto difficile anche da fare. Io direi che invece i versi sono molto ben caratterizzati, sono molto distinti anche, pur ricomponendosi poi in un'unità fondamentale che è l'interezza in qualche modo della creazione, quindi ogni singola poesia, no? Diciamo lemmi e sintagmi che sono le componenti fondamentali del linguaggio sono molto ben amalgamati e questo appunto è tipico della poesia, se vogliamo rifarci a quanto detto prima, no? Citando Blum. Quindi direi che ecco, e poi il lavoro successivo vi accennava la dottoressa Carol prima, cioè l'interfacciarsi diciamo della poesia col materiale iconografico che è dell'autrice stessa, le fotografie sono opera sua, e non è stato un processo, io credo, di particolare, di lungo riflessione, un ponderare, diciamo quasi come può fare il farmacista, no? Ma è un qualcosa che è venuto quasi spontaneamente e quindi si è reduplicata, direi, l'operazione del poiein, del creare, questo fondamentalmente. Io direi che ecco, ci sono particolarità fondamentali, tra l'altro ecco, non è una poesia in alcun modo ideologica, e qui naturalmente nel doppio senso, cioè non c'è una volontà appunto precostituita di dimostrare un qualcosa, e neanche nel senso diciamo sociologico non è afferente alla falsa coscienza assolutamente, ecco, questo è molto importante, e peraltro ecco è un'operazione che si, come ci ha anche già detto l'autrice prima, è sinestesica, è nata dalla sua esperienza con altre discipline artistiche, la danza, ma poi anche la fotografia e altro, ecco, e poi naturalmente quel bacino, quel pozzo fondamentale che è la vita, come abbiamo già sentito. Adesso ascoltiamo, grazie anche per la sua spiegazione, ascoltiamo un altro gruppo di poesie, Palla Buddha, Casa Vuota e Sognatori. Palla nudo. Palla nudo sui sentieri della mente, come un esploratore alla ricerca della verità. Palla nudo sulle vie del cuore, senza esitazioni o mezze parole, per vivere te stesso senza sorveglianze speciali. Palla nudo sulle orbite dell'universo, in cerca della luce che possa abbagliare la tua vita. Casa vuota. Busso alla porta, ma non c'è nessuno. Solo una flebile voce attaccata debolmente alla vita. La casa, prima abitata da vive emozioni, è colma di ricordi, di parole impresse come graffiti nel muro. Non c'è più lo splendore incontaminato di un tempo, mobili ed oggetti raccontano a fatica storie di famiglie ormai sfumate. Il silenzio incombe e le lancette dell'orologio, fuoriuscite dal vecchio quadrante, non tornano più indietro. Sognatori, esilaranti viaggiatori del tempo, abbagliati dalla luna, raggiungono ad occhi socchiusi incommensurabili altezze e vertiginose profondità. Si ridestano alla fatica e riprendono la ricorsa per erraconde odissee sulle rotte del sogno e delle emozioni, per compiere nel perimetro della vita il loro disegno dell'essere. Ecco, ci stiamo avviando piano piano alla conclusione di questo nostro incontro. Il libro che abbiamo appunto conosciuto e scoperto questa sera attraverso le parole di Franca e di Patrizio Zinga, poi con l'aiuto di Eugen Galasso, rappresenta penso una selezione, no? della tua produzione poetica. Sì, 100 su 200, poi 50 di nuove successivamente. Quindi è una vena che non si è esaurita, anzi si è ulteriormente arricchita, probabilmente con degli stimoli nuovi. Volevo chiedere appunto Franca, come sei arrivata a questo titolo, Metafore da una vita? Comunque qui diciamo le possibili poche soluzioni erano molte, e questo titolo mi è sembrato il meno banale, quello che più di altri andava a garantire una copertura semantica di tutto quello che veniva descritto poi nel libro, e poi perché rispetto ad altri si sposa bene con la foto di copertina, una foto che ho fatto io in tempi non sospetti, nel senso che più o meno di 3 anni fa la foto, e in quel momento c'era solo un interesse mio, diciamo, di fotografa, tra virgolette, nel senso di cogliere la composizione, quindi l'estetica, semplicemente l'estetica delle cose, ma la pura estetica, no? Perché per me l'estetica è sicuramente un valore. Ecco, li ho messi insieme e vedevo che la cosa si completava bene e c'era una sintonia tra titolo e copertina. Poi, diciamo, a posteriori riflettevo e dicevo, guarda, in effetti ho scoperto a posteriori, diciamo, anche un significato simbolico della copertina, mentre prima appunto aveva solo un significato estetico. E allora mi soffermavo sugli oggetti che sono riprodotti appunto in questa foto. Vedete una rosa, vedete un sasso e un cuore. Praticamente è riassunta in qualche modo simbolicamente e metaforicamente la vita. La vita nelle sue espressioni, da una parte negli opposti, la rosa e il sasso, quindi la luce e l'ombra, la vita e la morte, tutti gli opposti, tutte diciamo, le divergenze, il femminile e il maschile, tutte le possibili, diciamo, polarità della vita, no? Scienza inconscio, tutto, cioè sì. puntini, perché sono migliaia, penso, di opposti nella vita. E poi questa rappresentazione del cuore, invece, che praticamente è la chiave di lettura, è quella a questo ruolo di mediazione tra gli opposti, cioè l'emozione, il cuore come luogo della mediazione, della conciliazione e dell'armonia. Allora, in questo modo la copertina non ha più un senso solo estetico, ma proprio rappresentativo di un significato importante, quindi la bellezza in senso ampio, in senso intesa appunto come armonia, come del resto anche Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, forse anche lui su questa stessa linea, e poi tutti gli altri, fino a Papa Francesco, che ha parlato anche in questo senso. E quindi ecco questo. Prego. No, dicevo, teologicamente Hans von Balthasar, no, che ha teorizzato questo. Certo, sì, prima, sì. Sì, comunque appunto l'armonia come motore per avviare insomma anche una visione della vita ovviamente così capace di superare gli opposti sia nella sfera di qualsiasi sfera personale o sociale o lavorativa, conflittuale anche, insomma, no? Questo è sicuramente un valore, contro la bellezza in senso estetico, l'altro valore è l'armonia, insomma. Leggiamo Cuore arrugginito e le altre poesie. Sì. Cuore arrugginito. Disincrosta il tuo cuore arrugginito negli anni dalla zavorra dei sogni svaniti. Accendi la luce di un fugace lampo di eternità perché non svanisca. Non accontentarti di galleggiare in superficie, ma oltre l'apparenza, nel cielo aperto, senza dissonanze, dove il sorriso sposa le lacrime. Lascia che sia il cuore a condurre i tuoi passi nel doppio orizzonte della vita. Tempo senza divenire. E così si chiude il cerchio affascinante ed appagante di un attimo di vita sospeso tra cielo e terra. Dal primordiale abbraccio dal sapore universale allo sfilacciamento in un'emozione lenta, priva di peso specifico, che ride stancamente l'eco dei gesti delle tue carezze, in compagnia di un'effimera poesia, di una lacrima asciutta e di un muto granello di sangue. Sulla riva del silenzio. Sulla riva del silenzio si frangono spumeggianti le onde del nulla. Raccolgo conchiglie vuote, pensieri senza parole, ricordi senza passato. Primavera. Una sola primavera per noi, che non sia dimenticanza, ma duraturo incantamento, non arenato o dileguato in un silenzio di parole, mentre gli anni sfogliano incessantemente come una rosa, mentre il tempo svapora e accorda finemente i ricordi, intatto il tuo fulgore, trasfigurato solo dalla lontananza. Assapora la freschezza del presente, porta in serbo il profumo di quel che ci appartiene, ruba al cielo la sua profondità e guarda il mondo con gli occhi della luna. Mentre ascoltavo queste poesie mi è venuta in mente una domanda per te, Franca. Se tu dovessi definire con una parola sola che cos'è la poesia per te, cosa diresti? Ti rispondo con Magrelli che dice: non so come si formano le poesie. diciamo che ci sto ragionando, cioè nel tempo, pian piano, perché in fondo è una cosa abbastanza recente, no? La pubblicazione di questo libro, e quindi dopo la produzione in cui ero coinvolta in prima persona e non avevo neanche la possibilità di riflettere, poi mi tengo piano piano. Ma sicuramente intanto è un piacere la poesia, cioè scrivere per me è veramente un piacere, così come un piacere penso per i lettori, diciamo, sia di poesia che di qualsiasi altra cosa. Proprio questo gusto di piacere di scrivere è un momento di benessere. Volendo dirla con uno slogan poetico, è una spa dell'anima, in formato XXL. Ecco, quindi è un luogo dove io riesco in qualche modo a connettermi con l'universo, dove trovo il punto di contatto tra finito e infinito. perché le poesie sì, parla, si esprimono con le parole, ma comunque c'è dell'altro dietro le parole, c'è anche l'invisibile che non riesco neanche a dire, a tradurre in parole, perché il linguaggio comunque è uno strumento limitato in qualche modo, però mi consente almeno in parte di avere questa possibilità di connessione con l'universo, insomma, dell'io, con quindi questo matrimonio alchemico tra l'immanenza e la trascendenza. Quindi è questo luogo qui, un luogo privilegiato che ho scoperto, che ho trovato, che insomma mi gusta, insomma, perché è veramente un momento particolare, insomma. Grazie Franca. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda o qualche curiosità. Il professor Galasso ha detto che la poesia è oggettiva, cioè non va al di là del conosciuto, cioè praticamente è attraverso il conosciuto che scriviamo anche i versi. E mi pareva di aver sentito nella prima poesia letta dal signor Zinda, mi pare che si intitola La Rocca. No, La Rocca. La rocca. Mi pare di aver colto lì un passetto fatto in là, più in là della pura oggettività di questa poesia, alla fine poi, se la potesse leggere mi farebbe piacere. Purtroppo c'era il PowerPoint che era una delle cose più belle, sì. C'era il testo, la foto e la musica. Siamo riusciti a farlo partire, ma poi si è poi spento da solo. Questo è proprio un vero problema. Siamo macchinari nostri, per cui un piccolo schermo proprio... ve lo faccio vedere se volete. Sì, faccio partire. Sì, sì. Provo. Allora. Dunque, la seconda poesia che ho letto era A bassa voce. Forse era quella che uno si intitolava Frontiere. Frontiere. Frontiere. Frontiere, sì, la prima della seconda. Frontiere indefinite dell'identità e della memoria, scenari carichi di suggestive immagini, sguardi che si perdono nell'orizzonte là dove il mare tocca il cielo, paesaggi ad estensione zero. Tutto questo è la geografia dell'esistenza. Grazie, è molto bello perché si va oltre lo spazio, diciamo, conosciuto in qualche modo. Si ricollega a quello che dicevo io appunto ultimamente, di questo ognuno tra finito e infinito, questo tentativo appunto di andare al di là dell'atomo, della materia, della fisicità, no? Metafisico. Sì, poi sono abbastanza essenziali, un po' perché sono io di carattere così sintetica e essenziale, ma ecco, sono un po' un garettiano, cioè brevi, condensate. Signor Martino, vuole aggiungere qualcosa? Sì, ho sentito questi stati d'animo e emozioni, ma quella più importante è che ha avvertito il ruggito degli aquiloni. Ecco, l'ha fatto partire tutto, Non si può dire adesso scrivo una poesia. No, assolutamente. Non si può, no. Assolutamente no. Ho scoperto io col tempo che scrivo qualcosa. Che quelle fatte così sono tutte le sofistiche. Quelle, diciamo, adesso scrivo una poesia. Quelle pensate. Come fare un compito per dire poesia. Non si può fare. Si può fare la narrazione, cioè dove lì c'è la trama, lì anzi vedi, diciamo, sequenze in testa. Con la poesia no, non puoi avere una sequenza in testa. Cioè veramente c'è un applato veramente. non è, una volta non ci credevo, l'ha creato l'occhio, dicevo così, sarà, ma no, è vero che non, ogni tanto se si scrive una poesia è proprio ispirata, è veramente così. No, è che arriva come una specie di nuvoletta, ma un istinto che tu non riesci neanche a capire che cosa ti arriva sta nuvola, c'è l'emozione e poi sì, questa emozione diventa, si traduce in linguaggio, in parole, ma in realtà è proprio la nuvoletta. È questo riuscire a trasformarlo in parole che è un'abilità che non tutti hanno o che non sempre si riesce, certo, anche certo, a cogliere nella lettura, no? Cioè bisogna, sì, essere anche bisogna essere dei lettori di poesia, oltretutto. Sì, io non ero neanche lettrice, cioè devo dire che pur lavorando alla filiera del libro, come tu pensai, la poesia era un territorio per me lontano sia dal punto di vista personale, come interesse personale, che professionale. Proprio anche nella mia biblioteca non c'era un verso, e io non ho scritto mai un verso nella mia vita, per cui ecco lo stupore che, sul quale insomma ho detto prima, insomma. Sì, io non ho una domanda, però tu lo farei. È bravissimo, è veramente vero, da cioè le poesie diventano dei bascrilievi, no? Cioè quando sono lette così sono delle cose ad amplificare, no? Sì, il messaggio che poi nelle tue poesie ci sono dei messaggi che poi ognuno riesce a cogliere in base al proprio io. Vissuto, diventa proprio vissuto. Vissuto anche al proprio io, al proprio essere. No, devo fare i complimenti in pubblico perché per poter esprimere la tua arte attraverso la poesia deve avere una certa sensibilità e la tua è una sensibilità, è un'eleganza armonica che si esprime in tutto quello che fai, perché io ho la fortuna di conoscerla come amica. È una mia amica e non pagata, no. però farmacista. Io eccola qua, sono di alchimia, di alchimia, fai alchimia. Però ecco, lei veramente esprime l'arte in tutto quello che fa, ma anche, cioè, anche in una cena, è bellissimo della cena da lei. I suoi piatti sono dei quadri. Io non avrei mai pensato che potessi scrivere poesie, ma te lo giuro, un giorno ti avrei visto pittrice. Cioè, sì, è vicino anche alla pittura, sicuramente. Sì, perché io già avevo, ti ho fatto i complimenti per le foto, perché qualche anno fa ho potuto apprezzare le foto, già mi sembravano. Sì, peccato. Artistiche, già quella era un'espressione artistica. Sì, sicuramente l'abbinamento del testo con la poesia vanno a rinforzarsi vicendevolmente, sicuramente. Poi da una parte c'è, sembra un paradosso, ma c'è l'immagine poetica, cioè colta nel suo momento nella poesia, no? E il testo iconico, cioè c'è questa osmosi, diciamo, delle due parti del libro. Per cui era molto interessante vedere il video, veramente sono mortificata di questa cosa. Comunque nel libro ci sono, insomma, sì, poi leggerà il libro, troverà anche questo apparato iconografico a colori, tra l'altro. Certo. Grazie. Ecco, poi questo per quanto riguarda la foto e la poesia, poi come dicevi tu, il discorso dell'armonia, dell'eleganza che mi contraddistingue, certamente, rispetto all'aggancio con il gesto, invece, semplicemente anche con la danza ci sono molte affinità con la poesia, secondo me, no? Perché un gesto così è poesia, secondo me, no? Perché appunto loro non sanno che tu sei stata una pattinatrice sul ghiaccio. Sì. La danza classica, danza bellissima, cioè veramente si esprime a 360 gradi. Cioè, dovevo, sì, mancava la parola, ma adesso ho comunicato nella mia vita in altri modi, cioè si mancava la parola, sono nata a 60 anni, insomma. un uomo Natale. La second life di Frank. No, la terza. Anche la terza. Prima lavoro, seconda faccio la ballante di notte, la terza poesia. Come dire, la fantasia è un grande nutrimento per il cervello, per lo spirito, per poter andare avanti, per continuare a pensare, a costruire dei percorsi. Ben venga se c'è qualcuno che ne ha più di altri, che la riesce a regalare attraverso le sue fotografie, le sue poesie, i suoi racconti. Insomma, abbiamo bisogno sempre di qualcuno che ci dia una mano per coltivare la nostra immaginazione. Grazie Franca, grazie a tutti voi. Grazie a voi, grazie a Valerio, grazie a Patrizio, sicuramente ha valorizzato la serata, grazie mille. E grazie a tutti voi, che all'80% siete miei amici, per cui grazie mille veramente di cuore e buon Natale. Grazie.